Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sciopero all'Italia, si ferma il 60% dei voli a Milano, si ferma il trasporto pubblico locale per tutta la mattinata nei giorni del Salone del Mobile. La tassa sul lavoro più alta di 10 punti rispetto alla media europea, dice la Corte dei Conti, rottamazione delle cartelle, 600.000 le richieste. In Siria salgono a 72 i morti per quello che i ribelli dicono essere un attacco chimico, il regime di Assad e la Russia respingono le accuse. La pillola abortiva, la RU486, anche nei consultori dalla prossima estate, lo ha deciso la Regione Lazio, centrodestra all'attacco, violata la legge 194, dicono. Prima approvazione per la cosiddetta ordinanza anti-kebab del Comune di Venezia, stop a nuove aperture per chi fornisce cibo da strada in centro. Il calcio, tutto come previsto nella prima semifinale di Coppa Italia, passa la Lazio sulla Roma, questa sera Napoli-Juventus, con i bianconeri che partono da un 3-1 a loro favore. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, potete vederci e scriverci anche sulla nostra diretta Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, e ci trovate anche là. In apertura dunque parliamo della giornata complessa per il trasporto aereo e per quello pubblico locale, in questo caso a Milano. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Il 60% dei voli cancellati, il 92% dei passeggeri riferisce all'Italia riprotetto su voli alternativi e una fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Giornata di disagi dunque per lo sciopero dei dipendenti della compagnia che protestano contro un piano che a loro dire è di soli tagli e non di rilancio dell'azienda, circa 2.000 esuberi previsti e il taglio delle retribuzioni del personale navigante tra il 20 e il 30%. Uno stop che arriva dopo una serie di tavoli tecnici in corso dal 21 marzo tra aziende e sindacati alla presenza del governo, tavoli che evidentemente non sono riusciti ad avvicinare le parti. E ci sono disagi, ci sono stati questa mattina disagi anche a Milano, perché hanno scioperato fino alle 12.45 metro e bus. Lo sciopero è stato indetto da CGIL, CISL, UIL e CUB di 4 ore contro la proposta del comune di spacchettare il servizio di trasporto pubblico locale, una decisione che porterebbe a loro dire ad un peggioramento delle condizioni di lavoro, uno stop che ha pesato particolarmente perché è arrivato nel pieno del Salone del Mobile. Tutte le linee della metro sono state interrotte, si sono registrate code agli stazionamenti taxi, alle fermate dei mezzi di superficie, particolarmente penalizzati i turisti in arrivo per la kermesse. E per ora è tutto. E grazie dunque ad Alessandra Schepisi, e più avanti ne parleremo proprio con un sindacalista dell'azienda Trasporti Milanesi per capire le motivazioni di questo sciopero e come mai uno sciopero proprio in questa giornata. Veniamo alla Corte dei Conti che presenta il rapporto sulla finanza pubblica nel 2017. Cosa ne emerge? Lo chiediamo al nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. La Corte dei Conti nel rapporto 2017 sulla finanza pubblica parla di limiti e dispersioni del sistema fiscale italiano. I magistrati contabili evidenziano l'esigenza di ridurre la pressione fiscale a partire dalle tasse sul lavoro. Il cuneo fiscale, spiegano i magistrati, è in Italia di ben 10 punti superiore a quello che si registra mediamente nel resto d'Europa. Il 49% viene infatti prelevato a titolo di contributi e di imposte. Un'esposizione tributaria tanto marcata non aiuta il contrasto all'economia sommersa e la lotta all'evasione. Dalla Corte dei Conti poi un passaggio sulla situazione economica del Paese. La ripresa è meno fragile, dice il presidente Martucci di Scarfizzi, ma ci sono ancora elementi di incertezza. Sentiamo allora questo passaggio. Non vi sono certo le condizioni per affermare che la crisi sia definitivamente alle spalle, perché le insidie sono sempre dietro l'angolo, a causa soprattutto delle variabili del contesto europeo e di quello internazionale. Ma vi sono buoni motivi per sperare, a condizione che si perseveri in un percorso che sappia conciliare misure a sostegno della crescita e alla riduzione delle spese superflue in un quadro di equità sociale. Nel 2016 la crescita ha ripreso vigore e i primi segnali dell'anno in corso sono incoraggianti, ha detto quindi il ministro dell'economia Padoan. Siamo in una fase di transizione, ha aggiunto, verso una crescita più robusta e sostenuta grazie ai significativi progressi in termini di riforme strutturali. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta, e per rimanere a temi correlati, in particolare quelli fiscali, sono emersi dettagli sull'andamento della rottamazione delle cartelle. Sentiamo. Sono circa 600.000 contribuenti che al 23 marzo hanno aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia, una misura prevista dal decreto collegato alla legge di stabilità 2017 e prorogata fino al 21 aprile. A fornire il primo bilancio della rottamazione è l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, che in audizione alla Camera ha spiegato che fino ad oggi sono state lavorate circa 502.000 istanze per un controvalore di 8,3 miliardi di euro. La strategia fiscale messa in campo dallo scorso anno, secondo Ruffini, sta dando frutti molto positivi, anche perché c'è stata una risposta positiva da parte dei cittadini. Più della metà dei debiti contenuti nelle cartelle rottamate, ha spiegato Ruffini, risalgono a un periodo precedente alla fine del 2013. L'importo finale da pagare sarà comunicato ai contribuenti entro il 31 maggio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ci spostiamo all'estero e andiamo in Siria all'indomani di quello che i ribelli classificano come un attacco chimico, versione sulla quale tra l'altro vengono sollevati dubbi, ma ci torneremo tra un attimo. Intanto la cronaca. 24 ore dopo l'incursione aerea contro Khan Sheikh, località della provincia siriana di Idlib controllata dai ribelli, in cui sarebbe stato usato del sarin, un tipo di gas nerdino, il bilancio delle vittime va aggravandosi. Si parla di 72 morti, tra cui 20 bambini e oltre 160 persone ferite o disperse. Per la responsabilità di questo attacco, l'Occidente, così come l'opposizione siriana, puntano il dito contro il regime siriano e ritengono responsabile il presidente Bashar al-Assad. Oggi verrà presentata una risoluzione al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a Bruxelles ha deplorato i crimini di guerra. L'orribile evento di ieri dimostra che in Siria si commettono crimini di guerra. Il Consiglio di sicurezza si prenderà le sue responsabilità. L'esercito siriano ha però smentito l'utilizzo di armi chimiche. La Russia ha detto che l'aviazione del regime ha bombardato un magazzino dei ribelli in cui erano custodite delle sostanze tossiche destinate ai combattenti in Iraq. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come avete sentito, ci sono dubbi e versioni diverse. Chi ha un'idea diversa su quello che è avvenuto è Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa. Lo abbiamo raggiunto, sentiamo. Ma dovremmo prendere con le molle le notizie che ci giungono da Idlib, perché le notizie sono state date tutte da organismi legati ai ribelli. E sul piano tecnico è difficile confutare l'utilizzo reale di gas, ma ci sono due diverse valutazioni. I ribelli accusano le forze aeree di Damasco di aver lanciato ordigni con gas. Invece il comando russo ieri sera, il Ministero della Difesa russo, ha reso noto che le incursioni aeree siriane avrebbero invece colpito un deposito e fabbrica di gas dei ribelli al suolo. E noi sappiamo che i ribelli hanno usato in più occasioni diversi tipi di armi chimiche o di aggressivi chimici, sappiamo anche che li producono. L'estensione limitata dell'azione del gas lascerebbe intendere che rafforzerebbe l'ipotesi russa, perché un bombardamento di gas su ampia scala con diversi ordigni richiederebbe l'impiego di diversi ordigni e provocherebbe molti più morti su un'area molto più estesa. E quindi l'ipotesi qual è? Quella che il colpo non sia partito né da Assad e né naturalmente dai russi, no? Ma io credo di no, per tante ragioni. Non perché Assad sia buono, ovviamente, perché in questa guerra che ha provocato oltre 300.000 morti ci sono stati stragi di civili da entrambe le parti, ma perché non ha nessun interesse a impiegare aggressivi chimici in questo tipo di conflitto. Se l'obiettivo fosse uccidere qualche decina di persone, civili o miliziani, lo potrebbe fare benissimo usando granate ad alto esplosivo, come ha fatto in tante circostanze, senza utilizzare quelle armi chimiche che invece avrebbero un impatto strategico e politico internazionale, come infatti stanno avendo, molto pesante e tutto negativo per Assad, che invece sta vincendo sul campo di battaglia la guerra contro i ribelli, che sono asserragliati nella loro ultima roccaforte, appunto nella provincia di Idlib. Quindi non ha nessun interesse Assad a usare armi chimiche, hanno invece interesse molto i ribelli ad accusare Assad di farlo, anche perché stranamente l'opinione pubblica, specie in Occidente, sembra considerare più importante la vita di un bambino ucciso dai gas che la vita di un bambino ucciso dalle schegge di una granata. Così dunque questa l'opinione di Gianandrea Gaiani. In Iraq tornano intanto gli attentati. Per l'uso di armi chimiche si indaga anche in Iraq, dove alcuni casi di avvelenamento sono stati denunciati dalle Nazioni Unite all'inizio di marzo a Mosul. Ad usarle sarebbe stato l'ISIS nel momento più duro dell'assedio alla sua roccaforte da parte dell'esercito iracheno e della coalizione internazionale. Sulla vicenda ancora si indaga, ma anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva riferito di pazienti ricoverati per contaminazione da armi chimiche. Chissà, forse provenienti dall'ex arsenale di Saddam Hussein o sfuggite allo smantellamento imposto dalla comunità internazionale a quello di Assad. Intanto il terrore ordinario dell'Iraq, quello delle autobombe, oggi ha fatto almeno 31 morti a Tikrit, terra di origine di Saddam Hussein e tuttora feudo dei suoi clan che si oppongono al governo di Baghdad avvicinandosi all'ISIS. Nell'ultimo mese l'Iraq stima la morte di oltre 500 civili e il ferimento di altrettanti in episodi di terrorismo, violenza e conflitto. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. La cronaca con gli aggiornamenti sulla vicenda di Budrio, sull'uccisione del barista. Proseguono intense le ricerche del killer di Davide Fabbri, il barista di 52 anni ucciso sabato scorso durante un tentativo di rapina nel suo locale di Riccardina di Budrio, nel bolognese. Utilizzato anche un elicottero dell'esercito dotato di sensori termici per perlustrare i casolari della campagna della bassa ferrarese bolognese. Le ricerche sono incentrate in particolare su Igor Vaklavic, un ex militare russo di 40 anni che potrebbe essere l'autore di una serie di altre rapine violente commesse nella provincia ferrarese. Dentro e fuori dalle carceri italiane, almeno 6 anni passati in cella, ma una volta fuori dalle porte dell'Arginone di Ferrara, dove è rimasto detenuto fino al febbraio del 2015, doveva essere espulso e invece è rimasto in Italia, libero di fare rapine con la sua banda. Intanto l'autopsia ha confermato che Davide Fabbri è stato raggiunto da un unico colpo e che la morte è stata istantanea. Prima di essere ucciso, il barista ha però lottato con tutte le sue forze contro il suo assassino. A rivelarlo i segni sulle sue mani e il materiale trovato sotto le sue unghie, che verrà ora analizzato dal RIS di Parma insieme agli indumenti che indossava. Adriana Fracchia, Radio 24, il Sole 24 Ore. E cambiamo decisamente argomento. Chi ci segue nella nostra diretta video su Facebook, sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, così come su quella di Radio 24, già se n'è accorto. Ci ha raggiunto un ospite in studio e non è un ospite casuale, il nostro Dario Ricci. Eccolo qua per parlare. Eccoci qua, pure in diretta Facebook. Avevo dimenticato, mettevo la giacca, cravatta, se me lo dicevi, giacca, qualcosa. Mi facevo bello, ci voleva un po' di tempo. Hai firmato la liberatoria comunque. Ah, sì. Quindi poi, essendo maggiorenne ormai da un paio d'anni, tutto a posto. Senti, Dario, allora per parlare di calcio, allora, ieri sera è andata come doveva andare, cioè dopo la vittoria della Lazio 2-0 all'andata, la Roma ci ha provato, non ci è riuscita e quindi sarà la Lazio in finale. E stasera un po' il copione rischia di essere lo stesso, no? Oddio, a posteriori sì, se quella di ieri sera è sembrata il dipanarsi di un canovaccio già scritto, però evidenziamo i meriti di questa Lazio, che innanzitutto ha fatto l'impresa all'andata con quel bel 2-0 e ieri tutto sommato non ha mai visto mettere a serio rischio questa qualificazione, da una Roma che sembra sempre un po' un'incompiuta, no? Sembra sempre mancare un qualcosa in termini di leadership, solidità. Ieri per esempio due giocatori come Nainggolan e Strootman, attesi protagonisti, certo non lo sono stati, ma tanto abbiamo sottolineato i limiti dei giallorossi quanto va premiato il lavoro di Simone Inzaghi, che a questo punto dell'annata secondo me è in corsa anche per il titolo di allenatore sorpresa dell'anno, perché veramente... Ricorderai, no? C'è il web pieno di canzoncine dei tifosi giallorossi che prendevano in giro in quest'estate quel Bielsa che doveva arrivare alla Lazio e che poi non è arrivato. Beh, è davvero mancato arrivo, mai fu più fortunato per lo Tito. Già che ci siamo, Dario, a proposito dell'Olimpico, della serata dell'Olimpico di ieri, senza barriere e nelle curve è andato tutto liscio e tranquillo, no? Sì. Aspettiamo la controprova, perché sì. Sai come la penso a proposito, tutti invocano impianti nuovi, stadi nuovi e ben vengano, poi la differenza la fa chi ci mettiamo dentro, no? E situazioni contingenti lo dimostrano, vediamole, tutta la querelle Juventus, antimafia, eccetera, eccetera, cioè... L'importante sì. È cambiare la qualità di chi poi c'entra. Certo, di chi c'è nelle curve. Se pensi che per come misura si sono messe le barriere divisorie all'interno dei gruppi di tifosi della stessa tifoseria. Sì. No? Sì. Cioè, abbiamo capito dove siamo. Questo per dare la misura. Senti, invece stasera. Stasera sarà una partita diversa da quella che abbiamo visto domenica scorsa, perché magari domenica scorsa il Napoli ha avuto delle remore, o meglio ha cercato anche di impostarla tatticamente. Si trattava di campionato e tutto sommato magari Sarri sa che in campionato il discorso forse è quasi chiuso. Stasera invece ci serve la rimonta, serve il 2-0 e una vittoria che vuole anche scacciare le polemiche dell'andata, no? Quindi c'è un surplus di carica agonistica da parte del Napoli. E vediamo un po' questa Juventus senza Mandzukic, ritrova Dybala. Allegri però sembra sapere il fatto suo, entra nei 15 giorni decisivi della stagione, perché poi quest'altra settimana arriva il Barcellona a Torino, quindi adesso si vede di che pasta è fatta questa Juventus, non solo dagli uomini di mercato, ma bisogna vedere che c'è oltre i milioni di euro e sotto la maglia. Allora, grazie a Dario Ricci di Sport e di Calcio, torneremo a parlare naturalmente in tutti i convocati a partire dalle 14. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo, iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo da Milano con un sindacalista dell'azienda trasporti milanesi, al quale chiederemo perché scioperano oggi, tra l'altro in coincidenza con quella che è la vera giornata di apertura del Salone del Mobile. A tra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezie, siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, così come sulla pagina Facebook di Radio 24, in diretta video naturalmente. Nella prima parte della trasmissione siamo occupati dello sciopero all'Italia e di quello dell'azienda trasporti milanesi, sulla quale torniamo tra un attimo. Abbiamo parlato delle tasse sul lavoro e dei dati della Corte dei Conti, di Siria, ci siamo occupati di calcio e c'è un'ultima notizia da darvi che viene diffusa in questi minuti dalle agenzie, riguarda indiscrezioni di stampa. È attesa entro aprile la pubblicazione del decreto con il quale il Ministero della Salute francese autorizzerà l'uso volontario sui prodotti alimentari dell'etichetta Nutri-Score. È la cosiddetta etichetta a semaforo che tanta preoccupazione sta creando soprattutto tra le nostre imprese alimentari, perché andrebbe a colpire una serie di prodotti nostri tipici della dieta mediterranea, come per esempio l'olio d'oliva o il parmigiano reggiano. Vedremo come evolverà questa notizia dopo la sperimentazione francese, dunque la Francia si preparerebbe a partire. Iniziamo adesso il nostro giro per l'Italia e iniziamo, come si diceva, da Milano. Luca Stanzione è il segretario generale della FILT CGL di Milano, quindi del settore trasporti. Buongiorno Stanzione, benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a voi, grazie. Allora, come mai scioperate oggi? Santa pazienza, il Salone del Mobile, sui social c'è un sacco di gente che si lamenta e dice proprio oggi, questo palcoscenico internazionale per la città, perché creare questo problema proprio oggi? Ma guardi, oggi c'è in discussione il futuro del trasporto pubblico a Milano, che significa mettere in discussione la capacità di questa città di essere un teatro internazionale di grandi appuntamenti. A noi ovviamente dispiace di farlo dentro questa che è una settimana particolare. Tenga conto che noi siamo soggetti alla normativa che ci impone di trovare un giorno per scioperare compatibile con il calendario della Commissione Nazionale di Garanzia. Però il tema del fatto che Milano sia una città attrattiva è evidente da queste giornate, che sono giornate quelle del Salone del Mobile. Noi stiamo chiedendo al Comune di Milano certezze sul futuro del trasporto pubblico. Esattamente, mi scusi Stanzione, però esatto, così sì, se mi permette, così un pochino generica e non si capisce. Te lo dico in maniera molto precisa. C'è una delibera del Comune di Milano che prevede un primo scorporo di servizi della mobilità, una prima divisione di quello che oggi è unito. Il rischio è che quella delibera provochi un ulteriore spezzettamento in piccoli lotti dell'attuale trasporto pubblico milanese. Cioè scorporo in che senso? Me lo spiega? Cioè cosa scorporano da cosa? Oggi noi abbiamo Milano in cui il trasporto è fatto da ATM, un'unica grande azienda. Sì. Il rischio è che domani possano esserci piccole aziende su più lotti della città metropolitana di Milano a svolgere il servizio pubblico. Ma questo è attualmente previsto dall'idea del Comune di Milano, dall'idea che vi ha sottoposto il Comune di Milano, o è un vostro timore? No, oggi c'è una delibera che fa una prima divisione che prima non c'era. prende un pezzo della mobilità milanese e dice già guardate che questa cosa sarà divisa da tutto il resto. Ma quale pezzo, dico? Area C, gestione di area C, car sharing, bike sharing, sosta e parcheggi. Ok, separato, tutto questo separato dalla parte di trasporto, per intenderci, tram, metropolitana e autobus. Avrebbe anche un senso dal punto di vista industriale? Ma secondo noi no. Cioè, secondo noi questi servizi è bene che siano integrati con il resto della mobilità milanese. Chi utilizza il bike sharing lo sa benissimo, ma anche a guardare esperienze che ci sono in Italia di gestione della sosta, che spesso sono contraddistinte da una gestione fatta da microaziende, da cooperative, quindi un servizio non di qualità e un servizio a volte che non garantisce anche la qualità del lavoro, le giuste retribuzioni, che non garantisce la trasparenza sugli appalti di cui questo paese ha bisogno. A Milano, qualche mese fa, non molto tempo fa, alcuni di questi servizi erano gestiti da cooperative. È stato fatto un lavoro straordinario per riportarle dentro il perimetro di ATM. E quindi noi, questo è il primo problema. Il secondo problema è che la stessa delibera dice che il blocco più grosso del servizio di trasporto pubblico, quindi tram, metropolitane, viene affidato all'agenzia di trasporto pubblico locale, fatto normativo regolato dalla legge regionale. Cos'è che contestiamo di questa delibera? Che su questo punto il Comune di Milano non dice con chiarezza che ha, come dire, vuole andare verso il lotto unico in caso di gara. Questo è un problema. Questo per voi, qua entriamo un po' più sul tecnico. C'è un problema occupazionale, se vuole. Guardi, non abbiamo tempo anche per questo. Comunque la ringrazio. Grazie Luca Stanzione, segretario generale della FILT CGIL di Milano. Lo dico all'ascoltatore che lo scrive. Non sono solamente i nostri scioperi ad essere giusti e motivati. Qua ci ha incuriosito il fatto che questo sciopero avvenisse. Se dovessimo trattare così tutti gli scioperi, ne tratteremmo tutti i giorni. Ci ha incuriosito il fatto che avvenisse proprio nei giorni del Salone del Mobile, nei giorni nei quali Milano è sul palcoscenico internazionale per quello che ormai è diventato l'evento più importante per questa città. Cecilia Delia è consulente per le politiche di genere della Giunta regionale del Lazio. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Ed è la prossima tappa del nostro giro per l'Italia, perché succede questo. La Regione Lazio sta pensando di consentire alle donne che vogliano abortire di avere la pillola per l'aborto, la RU486, anche in consultorio e quindi, diciamo così, senza passare dall'ospedale e così via. Ci dice che cosa c'è alla base di questa decisione, che tra l'altro, se non ricordo male, era anche una proposta che arrivò dal Movimento 5 Stelle qualche anno fa proprio in Regione Lazio. Prego. Guardi, questo non lo so, la cosa che stiamo per fare è una sperimentazione, è stata proposta da un gruppo di lavoro che ha lavorato appunto ai piani operativi per la rete dei consultori e quindi l'idea è quella che per 18 mesi si sperimenterà la possibilità di somministrare nel consultorio la RU486, consultori chiaramente legati agli ospedali, che lavorano con gli ospedali. Ci sembrava il luogo migliore, visto che è un servizio dedicato al sostegno delle scelte procreative femminili, no? Che segue anche tutta la contraccezione. Perché lo facciamo? Lo facciamo perché è un posto più accogliente, è una possibilità. Oggi l'aborto farmacologico che ci viene offerto dal servizio sanitario, già la Regione Lazio ha scelto di farlo in the hospital, in tutto il mondo si fa anche senza ricovero e neanche in the hospital, per cui proviamo a fare questa sperimentazione. Qua avete il centrodestra che attacca, no? Dice serve l'ospedale, in questo modo viene violata la legge 194. In settimane nelle quali, me lo faccio ricordare, Delia, la Regione Lazio è stata al centro dei temi che riguardano l'applicazione della legge 194, anche per quel concorso indetto al San Camillo per dei medici che fossero non obiettori, che poi ha ricevuto l'approvazione da parte dei magistrati amministrativi e quindi, come dire, da questo punto di vista giornalista ha un ok. Che cosa rispondete? Beh, io intanto dico che la 194 chiede alle regioni di fare di tutto per applicarla, no? Lo stesso articolo 9 che riconosce l'obiezione di coscienza dice che poi le regioni devono mettere in atto misure per applicare la legge, facendo ricorso anche a mobilità del personale, e quindi noi su San Camillo abbiamo, senza mettere in discussione il diritto all'obiezione, perché non lo possiamo fare, abbiamo fatto un concorso per un'unità che applica la 194. Sì, sì, sì. E la vicenda, quindi, e la vicenda l'abbiamo raccontata ampiamente. La 194 dice all'articolo 8 che l'interruzione di gravidanza può essere fatta anche in poliambulatori, no? In un rapporto con le strutture ospedaliere. I consultori oggi sono anche poliambulatori, quindi diciamo, e poi stiamo chiaramente parlando, quando la legge è stata approvata, L486 non era ancora utilizzata. Certo. Io ricorderei però, invece di parlare solo della regione Lazio, che l'Italia è stata richiamata dall'ONU per la difficoltà di accesso all'aborto legale, che ha per l'alto numero di obiettori, è stata richiamata dal Consiglio d'Europa per l'alto numero di obiettori che ha. Quindi il tema vero di questo paese è come si garantisce alle donne che intendono interrompere una gravidanza questa possibilità. Quindi noi ci stiamo occupando di questo, sono livelli essenziali di assistenza e ci stiamo chiedendo qual è il modo migliore per garantire. Un ascoltatore scrive e la mette un po' brutale, ma immagino che sia il pensiero di alcuni che hanno questa visione sull'aborto. Dice: pillole per l'aborto come al bancone del bar, una vergogna. In realtà non è esattamente così, mi sembra di aver capito. No, nei consultori, non è così, perché il consultorio non è un bar, con tutto rispetto per i bar. È un luogo dove una persona viene presa in carico, c'è un'equipe, quindi anzi una delle cose forti di questo servizio è proprio che i medici non lavorano da soli, no? Lavorano medici, assistenti sociali, psicologi, il tema anche è garantire tutto questo personale che serve ai consultori, e si farà con un medico, con un ginecologo, quindi nessuna banalizzazione, solo un modo meno invasivo e forse anche più ravvicinato, perché il consultorio poi è anche quel luogo che dice alla donna come si fa per evitare altre gravidanze indesiderate. Io penso che è quello che vogliamo, no? Che ci siano meno gravidanze indesiderate, no? E più libera scelta. Grazie Cecilia D'Elia per essere stata con noi. Le auguro buona giornata. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati, mentre siamo sempre in diretta anche video su Facebook, e poi riprendiamo il nostro giro per l'Italia. Abbiamo parlato di questioni anche sanitarie con una regione. Di questioni sanitarie torneremo a parlare, di vaccini. Siamo qua in attesa che il TAR decida sul ricorso di alcune famiglie di Rimini contro la legge dell'Emilia Romagna che impone la vaccinazione ai bambini che si vogliono iscrivere all'asilo nido. Ebbene, la regione Lombardia, a differenza di quanto ci aveva detto nelle settimane scorse l'assessore Gallera, sta per varare una legge simile, ossia il vaccino, altrimenti non ti puoi iscrivere all'asilo nido. Ne parliamo tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: lo sciopero all'Italia, si ferma il 60% dei voli, a Milano fermo il trasporto pubblico locale per tutta la mattina nei giorni del Salone del Mobile. Le tasse sul lavoro più alte di 10 punti rispetto alla media europea, dice la Corte dei Conti. Rottamazione delle cartelle, sono 600.000 finora le richieste. In Siria salgono a 72 i morti per quello che i ribelli dicono essere un attacco chimico. Il regime di Assad e la Russia spingono le accuse, ma la tensione internazionale sta salendo. Calcio, tutto come previsto nella prima semifinale di Coppa Italia, passa la Lazio sulla Roma, questa sera Napoli-Juventus con i bianconeri che partono da un 3-1. La borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, tanto in diretta su Radio 24 quanto sulla nostra pagina Facebook, e riprendiamo dai nostri confini nel nostro giro per l'Italia. Ieri siamo andati su quello svizzero per tutti i problemi che avete sentito, i valichi chiusi che stanno di notte, che stanno anche creando qualche tensione diplomatica. Adesso andiamo dal lato francese, dove continuano a succedere delle cose che a volte passano un po' sotto silenzio, a partire dal fatto che nei giorni scorsi tre migranti africani sono stati salvati sul versante francese, il cosiddetto passo della morte, si chiama proprio così, è un costone roccioso a ridosso del valico di Ponte San Luigi che unisce Ventimiglia a Mentone. Sono 7 le persone che sono morte al confine con la Francia dal 2016. Enrico Ioculano, il sindaco di Ventimiglia, torna da noi. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Adesso torneremo sull'ordinanza che lei ha fatto e che fa tanto discutere, però prima le voglio chiedere un'idea di come vanno le cose in questo periodo. Ma guardi, in questo periodo rispetto allo scorso anno sono aumentati comunque i passaggi e le presenze, quindi questo è un dato che anche in attesa dell'estate, della stagione più calda, insomma fa riflettere. Sono aumentati, quindi registrate un aumento in sostanza. Sì. Senta, sindaco, sta continuando a far discutere quest'ordinanza che lei ha fatto e che nella sostanza vieta di dare del cibo ai migranti. Ci sono stati 3 francesi che sono stati denunciati per questo, addirittura sono indagati, se non erro, poi non so come siano andate a finire le cose perché è un fatto dei giorni scorsi. Ci spiega la ratio di questo provvedimento? Sì, ma in realtà vieta la somministrazione per strada, cioè nessuno si sogna qua di proibire di dare da mangiare ai migranti, tant'è che guardi, la mia amministrazione ha chiesto e ha preteso, anzi direi, quando si è aperto il campo della Croce Rossa, che ci potesse essere anche la partecipazione delle associazioni nel centro di accoglienza. Questo perché? Ma intanto perché un occhio esterno non fa mai male, no? Ha visto, ci sono stati casi diversi in Italia, poi di mala gestione dei centri. Il fatto stesso che insomma possano accedere persone esterne, secondo me è un fatto positivo. E poi perché? Perché l'accoglienza è se supportata dalle associazioni, chi vuol fare volontariato, a mio avviso è migliore, quindi si è dato la possibilità alle associazioni di accedere. La mia amministrazione, le ripeto, ha mandato anche più volte istanze alla prefettura di autorizzare diversi soggetti a poter entrare nel campo e fare questo tipo di attività. È evidente però che come sindaco non posso fare a meno di lavorare perché si mantenga un equilibrio tra i diritti delle persone in transito e i diritti dei residenti. Quindi sì, lei capisce però, Ioculano, che suona un po' strano, no? Perché vedere una persona indagata perché ha dato da mangiare a uno che ha bisogno di mangiare è una cosa che, a prescindere da chi sia, no? Un migrante, un italiano, non importa, però un po' per certi aspetti sembra gridare vendetta, perché dici, ma cavoli, mi indaghi perché faccio un atto di carità, non lo so. Ascolti, questa è una situazione, quella di Ventimiglia è una situazione difficile, per certi versi anche paradossale. Spesso e volentieri questa ipocrisia si può tramutare poi nelle situazioni più concrete. Nel momento in cui tu hai 3 centri oggi a Ventimiglia che stanno da mangiare, quindi sono il centro della Croce Rossa, c'è cioè la famosa chiesa di cui tanto si parla, e il centro della Caritas, e l'amministrazione fa sì che tu possa entrare in un centro per dare la tua assistenza, insomma a questo punto perché dobbiamo continuare a fare questo tipo di attività per strada quando poi c'è un problema sanitario che è evidente? Se io non avessi adottato l'ordinanza a seguito di qualche esposto, ma secondo voi l'ASL domani non viene a chiamare l'autorità sanitaria preposta e dirgli, caro sindaco, ma te dove guardi? Quindi non è che si può far finta che tutto questo non esista. Poi questi ragazzi che sono stati denunciati fanno parte di un'associazione di cui insomma il comune ha chiesto ai primi di dicembre alla prefettura che questi potessero accedere al campo per fare la loro attività. Non hanno ricevuto risposta, noi abbiamo sollecitato, poi nel frattempo un po' per anche insomma in forma di protesta, mi passi il termine, per far uscire il caso, l'hanno fatto. Però discorso è questo, cioè dobbiamo renderci conto che siamo in una città, vengono date delle garanzie di accoglienza, di assistenza, però dall'altra parte insomma non possiamo far venire meno quello che è un diritto di tutti. Non si è affamato nessuno in questi 2 anni, voglio dire. E poi oltretutto, mi permetta, c'è un fatto, è 2 anni che vige l'ordinanza, che è in vigore, allora se se ne fa un fatto di principio dovevano contestarmela 2 anni fa, ma anche le associazioni non l'hanno fatto perché devo dire su questo che forse c'è anche un elemento politico, Ioculano, devo dire la verità, mi scusi che concordo con l'ascoltatore che ci scrive, se avesse fatto uno della Lega l'avrebbero massacrato dandogli del razzista, può darsi di sì, ma siccome io non sono della Lega, anche perché sennò probabilmente quando c'era il momento di massima crisi avremmo fatto le barricate, invece qua si è lavorato in senso contrario, si è lavorato per fare un'assistenza, un'accoglienza. Guardi, io invito tante delle persone che poi ci hanno scritto, perché come si potrà immaginare ci hanno scritto in tanti, a venire a Ventimiglia, ma non fare il giro di mezz'ora, un'ora, un giorno, no, venire e fermarsi per po' di tempo chi ha la possibilità e per vedere di dice lei come funziona l'accoglienza da voi. Allora esatto, guardi posso le dico l'ultima cosa, 5 secondi, anche meno. L'anomalia di Ventimiglia è che in questo campo c'è un'assistenza dove le associazioni possono entrare, abbiamo preteso l'assistenza giuridica alle persone che sono all'interno del campo e ci siamo battuti perché il campo fosse accessibile a chiunque senza identificazione. Okay, poi per motivi di sicurezza negli ultimi mesi è cambiato. Grazie Enrico Ioculano, sindaco di Ventimiglia, e le mie scuse pubbliche ad Angelo Capelli, capogruppo di Lombardia Popolare in Consiglio Regionale Lombardia, col quale volevamo parlare di vaccini e che è in linea con noi e che aspetta da qualche minuto al telefono, ma veramente non ce la facciamo coi tempi, ma il tema dei vaccini e l'obbligatorietà al nido è un nostro cavallo di battaglia, come sapete, e quindi torneremo a parlarne. Le mie scuse a Capelli, che appunto ci ha atteso in linea. Il traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.